Io non so cosa dirti, se questa è la realtà, non fa per me. Ora qui, nel mio mondo, io voglio solo un po' di vivere. Penso a quando mi dicevi amore vattene, ripenso ancora a quei momenti spesi insieme a te, ripenso ancora a molte cose. E ci ripenso tutte le giornate insieme a te. Ora sì, io vado contro, vado contro tutto, contro te. Ci ripenso tutte le giornate insieme a te. Tu non andare via.